L'altra Europa. Sono 8 minuti dopo le 12, siete in diretta con Radio 24, io sono Federico Taddia, questa è l'altra Europa, l'appuntamento settimanale con l'Europa, delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Le coordinate subito per seguirci anche virtualmente, euronetplus.eu è il portale del network europeo al quale apparteniamo, radio24.it per poter trovare tutti i contributi extra e scaricare poi il podcast, e poi i social @ Federico Taddia su Twitter e Facebook, oppure Euronet Plus R24. Chiedo scusa per la voce un po' nasale, ma il raffreddore è arrivato anche qua, ma anche con questa voce faremo il nostro viaggio settimanale. E in questa Europa delle possibilità e delle opportunità partiamo parlando di un progetto molto particolare, si chiama Homo on My Own at Work, per l'inclusione lavorativa nel settore alberghiero di giovani con sindrome di Down, un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus Plus. Ne parliamo con Paola Vulterini, coordinatrice del progetto per l'Associazione Italiana Persone Down. Buongiorno Paola, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi, grazie. Un progetto molto particolare, un progetto che sta entrando nel cuore del suo sviluppo. Di cosa si tratta? Dunque, prima di tutto, un progetto come On My Own at Work è stato prima un sogno che l'Europa sia di tutti e che la libera circolazione dei lavoratori o aspiranti tali con disabilità intellettive, quindi non solo con sindrome di Down, diventi una realtà anche per queste persone. E quando un sogno si pongono delle scadenze, diventa anche un progetto, e la nostra scadenza è l'agosto del 2017, appunto è la fine dei 3 anni di finanziamento della Commissione Europea. Per quella data noi vogliamo aver avviato una rete di hotel e di ristoranti in tutta Europa che ospitino tirocini o che assumano persone con disabilità intellettiva, sia del loro paese sia stranieri. Mm-hmm. Quindi una rete di hotel, appunto, che voi definite hotel amici, dove sì, ci sia personale formato, immagino, anche per lavorare, per sì, dare strumenti e possibilità. Sì. Uh-huh. Un ruolo importantissimo è svolto dalle agenzie formative o da tutti quelli come associazioni o centri per l'impiego che svolgono attività di mediazione che è necessaria per l'inserimento di persone con disabilità intellettiva. In particolare questo progetto offre 3 strumenti che possono facilitare tutto il processo. Il primo è rivolto alle persone con disabilità intellettiva, quindi ai tirocinanti, ed è un'app che è disponibile sia su smartphone che tablet e che ha la funzione di ricordare compiti, strumenti e modalità di azione relativi alla mansione da svolgere. Questo serve per rendere i lavoratori con disabilità intellettiva progressivamente indipendente dal suo tutor. Certo. Questa app è stata appena pubblicata su App Store e su Google Play ed è scaricabile gratuitamente previo accreditamento presso l'IPD, l'Associazione Italiana Persone Down, che è la promotrice di questo progetto europeo che si svolge anche in Spagna, in Portogallo e in altri paesi. Il secondo strumento invece è rivolto ai colleghi di lavoro delle persone con sindrome di Down e intellettive, e questo strumento è costituito da 14 video che illustrano esempi di una corretta relazione tra il tirocinante con disabilità intellettiva e i suoi colleghi di lavoro. In tanti anni, è dal 92 che l'IPD inserisce persone nel mercato libero del lavoro, quindi non in laboratori protetti, abbiamo visto che il problema non risiede tanto nell'apprendimento di specifiche mansioni lavorative, ma proprio nella relazione umana che si instaura con i colleghi. Spesso i lavoratori uomini diventano i papà o le donne le madri o tutti amici, non si rispetta quello che invece dovrebbe essere una relazione di lavoro, oppure le istruzioni vengono date in un linguaggio troppo difficile o troppe istruzioni in una volta, quindi insomma, i video servono a anche questo. una tipologia molto moderna di formazione attraverso questi strumenti. Il terzo passo invece è il terzo strumento è per il management dell'hotel. E questo dovrebbe essere proprio il fondamento di questa rete europea che stiamo per avviare, e che è noi lo chiamiamo un kit di qualità per appunto gli hotel e i ristoranti che intendano aderire alla rete, che comprende un codice di condotta, un manuale di applicazione di tale codice e un marchio che attesta l'adesione alla rete. Bisogna ricordare che anche per esempio in Inghilterra il governo inglese sono 30 anni che persegue questa strada di insistere non sull'obbligo di assunzione di persone con disabilità, ma sullo stimolare comportamenti di corporate social responsibility, cioè di responsabilità sociale delle imprese. E noi è su questo che vogliamo fondare la nostra rete. 25 ottobre la scadenza anche per partecipare al concorso per l'ideazione del logo che andrà a caratterizzare l'intera rete, onlinetamai.eu è il sito, ipd.it invece è il sito dell'Associazione Italiana Persone Down, dove potrete trovare tutte le informazioni. Grazie davvero Paola per averci illustrato questo progetto, ci seguiremo in futuro per entrare poi nel vivo agosto, l'estate 2017, quando questa rete diventerà finalmente un qualcosa di reale e realizzato, perché i progetti, i sogni, come ci ha detto lei, quando hanno delle date e delle scadenze, diventano progetti. Buon lavoro e grazie. Grazie a voi, arrivederci. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. SVE in Romania. Hai tra i 18 e i 30 anni? Ti piacerebbe lavorare con bambini e ragazzi nel contesto della mobilità internazionale, degli eventi culturali e del dialogo interculturale? L'associazione Sirinia è alla ricerca di un volontario europeo per la sua sede di Arad, in Romania, all'interno di un gruppo che si occupa di promuovere attività di dialogo tra culture differenti attraverso metodi di educazione non formale. Il candidato si occuperà della preparazione di attività per bambini e ragazzi, di promozione sui social e di organizzazione di eventi interculturali. Le candidature dovranno essere inviate il prima possibile seguendo le istruzioni riportate nella sezione Opportunità Europee del sito carriereinternazionali.it. Il suono dell'Europa, dell'Europa cercata, dell'Europa desiderata, dell'Europa che si cerca di raggiungere in tutti i modi, di quell'Europa inospitale, di quell'Europa che ti alza i muri, ti mette il filo spinato. Il suono dell'Europa tra migranti e smartphone, questo è il cuore di un progetto straordinario, progetto ideato da una coppia di musicisti, il loro nome d'arte è Johnny Mox e Above the Tree, il progetto invece si chiama Stregoni, con noi c'è Gianluca Traborelli, Johnny Mox per l'appunto, che ci racconta quello che hanno realizzato. Ciao Johnny o ciao Gianluca, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno, ciao. Uso il nome d'arte, uso il nome vero, come ci come sei? Ti pare. Okay. Allora Gianluca, che cos'è Stregoni? Allora, Stregoni è un progetto che si occupa dell'adesso in Europa. Sappiamo benissimo quello che succede purtroppo a largo nei canali di Sicilia, in mare, sappiamo le difficoltà che i migranti affrontano nel cercare di attraversare i confini, sappiamo pochissimo di quello che succede invece a pochi metri dalle nostre case, nei centri di accoglienza, non solo italiani ma di tutta Europa. E abbiamo deciso di occuparci di questo e di farlo attraverso la musica, andando a suonare prima nei centri di accoglienza con appunto gli ospiti, i richiedenti asilo, e poi portando la cosa nei club, nei festival e infine anche in tutta Europa. Insomma, abbiamo fatto un lungo tour sulle rotte dei migranti proprio. Utilizzando lo smartphone come protagonista assoluto di queste improvvisazioni musicali, credo non a caso. Beh sì, il telefono cellulare, lo smartphone è l'oggetto narrativo principale secondo noi di questi tempi e di questa storia. Non a caso ha subito anche una strumentalizzazione politica terribile, insomma il famoso arrivano tutti qui con il cellulare, le frasi che pronunciano insomma quelli che chiamiamo noi gli ultra dell'ignoranza. E invece sul telefono quello che tutti dovrebbero sapere è che è impossibile arrivare in Europa senza uno smartphone, per il GPS per esempio, in Africa addirittura col telefono Come sappiamo, i telefoni cellulari sono arrivati prima di tutte le altre strutture, quindi per esempio in Africa effettuano le transazioni bancarie attraverso le ricariche telefoniche, sono anche più avanti di noi. E, sui telefoni ci sono tantissime fotografie, tantissimi video che parlano del viaggio che queste persone hanno intrapreso, che sono viaggi che durano più di un anno, di solito per arrivare in Europa, la media è 14 mesi. E ci sono appunto video, fotografie, testimonianze e c'è anche tantissima musica. Noi partiamo da quella musica e chiedendo ai ragazzi semplicemente di venire e infilare il jack nello smartphone e di suonare una canzone che hanno sul telefono, e io poi lì ne estrapolo un frammento, faccio un loop, che tecnicamente è appunto una cosa che continua a ripetersi a ripetizione, e da quel loop di quella canzone, che può essere qualsiasi tipo di stile musicale, cerchiamo di costruire una nuova canzone, un nuovo pezzo, un'improvvisazione che deve diventare un terreno di scambio tra persone di diverse culture. Insomma, è una metafora per cercare di trovare appunto un punto di incontro e di cercare di capire, come dire, dal basso le possibilità e quello che hanno da portare, insomma, queste persone all'Europa. 8 mesi, oltre 800 persone coinvolte, incontrate, con cui si è suonato insieme, persone provenienti dal Mali, dal Sudan, la Nigeria, l'Eritrea, ma anche l'Iraq, l'Afghanistan, il Pakistan. Questo è stato Stregoni, e ci ascoltiamo un assaggio del live a Trento, poi torniamo da te per capire se questo progetto è terminato e cosa vi siete portati a casa. Sonorità che raccontano viaggi, storie, speranze, sonorità nate per caso infilando questo jack negli smartphone e poi facendo improvvisazione sopra queste musiche. Gianluca, al di là dell'incontro musicale, questa esperienza intanto si è conclusa e guardando indietro, riascoltando ora questi brani, cosa vi siete portati con voi? Beh, insomma, è stata un'esperienza chiaramente che non dimenticheremo facilmente. Abbiamo incontrato persone che hanno perso tutto e che hanno una forza di volontà che non pensavo avrei mai visto di persona. Ogni tanto scherzando dicevamo: ma stiamo suonando e intervistando quelli che sono i nostri partigiani, nel senso che queste persone stanno facendo non solo la loro storia, ma stanno facendo la storia di tutto il mondo. Chiaramente l'Europa sta commettendo, secondo noi, un crimine senza precedenti nel non dare una possibilità a queste persone, nel caso specifico dell'Italia, che è un paese che ha il costante e continuo problema della crescita economica. La risposta è esattamente nelle persone che arrivano qua, che portano come dire, unità, portano più numeri, portano più voglia di fare, più forza di lavoro, e invece che cercare di intercettare questi bisogni, queste esigenze, quindi nel canalizzare una crescita per tutti, queste persone chiaramente vengono emarginate, sono temute politicamente, e il rischio è che se continuiamo così poi la situazione creerà dei disagi maggiori, dei veri disagi, perché in questo momento la situazione è ancora molto, molto quieta. Certo. Un milione di storie, abbiamo suonato con un ragazzo iracheno che ha fondato la prima rock band a Mosul, e quando l'ISIS poi ha preso la città chiaramente ha dovuto scappare. Abbiamo suonato con siriani arrivati con il gommone, chiaramente con delle storie terribili alle spalle, con metà famiglia ancora nel proprio paese di origine, e sono storie molto potenti, ma non, il clima generale è quello di grandissima voglia e grandissima necessità di avere fiducia nel futuro, chiaramente. Si è concluso ora questo vostro viaggio? Stiamo per concluderlo, almeno la prima fase. Abbiamo realizzato un documentario in tutta Europa, quindi Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Amburgo, Copenaghen, Malmo, e vorremmo andare anche a Calais per concludere, se ci riusciamo, perché a questo punto abbiamo suonato veramente con chiunque. E nella seconda fase cercheremo di scorporare il progetto in varie unità e cercare gradualmente di scomparire dal progetto. L'idea è di far suonare questi ragazzi, quelli che sono bravi, di farli andare da soli e di, attraverso il nostro nome, il nostro logo, di creare una specie di franchising per permettere a queste persone di fare le serate dove le facciamo noi in Italia, in Europa, non nei centri migranti, chiaramente. Cioè, certo, mischiarsi il più possibile e avere la possibilità di portare la propria sensibilità, grazie agli sforzi che abbiamo fatto per mettere in piedi il progetto, insomma, di farlo continuare in questo modo qui. Gianluca, un'ultima domanda, perché Stregoni? È una lunga storia. Più di un anno fa, più di un anno e mezzo fa, avevo suonato con la mia band, ero stato invitato a suonare in un posto, io sono di Trento, in un posto che si chiama Punto d'Incontro, che diciamo è una sorta di punto di riferimento per senza tetto, migranti, insomma è una struttura fantastica, e ci piaceva l'idea di coinvolgere le persone con cui avremmo suonato, e allora ho iniziato a suonare, mi sono fatto dare una sedia dal pubblico e ho iniziato a percuoterle, a far uscire dei suoni, a metterli in loop, a fare un po' di magie. Uh-huh. E la cosa ha funzionato, tutti hanno collaborato e partecipato. Alla fine del concerto due ragazzi sono arrivati e hanno detto: ma voi siete proprio degli stregoni, fate le magie. E abbiamo pensato che il nome era perfetto, perché chiaramente la musica in tutte le culture ha una funzione rituale e magica, in qualsiasi cultura, forse in quella europea è quella che ha meno questa connotazione. E ci piaceva l'idea di essere, sì, di fare queste magie con persone diverse, insomma, senza connotazione politica, è un nome diverso, abbiamo un logo molto duro, non avevamo nessuna intenzione di avere, così, di fare i Manu Chao della situazione, insomma, cerchiamo di portare la gente dentro e di farla sentire bene facendo quello che sa fare, portando la propria musica, la propria cultura, in una musica che non è più di nessuno a questo punto, sì, e che però in qualche modo è la vera musica europea. Di tutti. Grazie davvero Gianluca, complimenti, buon lavoro. Grazie Federico, ciao. Ciao. Europost-it. Settimana dell'informazione europea dei giovani. A tutti i giovani europei alla ricerca di nuove opportunità. Dal 23 al 29 ottobre 2016, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed Eurodesk Italy promuovono la Settimana dell'informazione europea dei giovani. L'evento, che prevede diversi appuntamenti in tutta la regione, sarà un'occasione per scambiare buone pratiche a livello europeo e nazionale e per riflettere sullo sviluppo delle attività locali di informazione dei giovani. La settimana sarà strutturata in tre attività specifiche, una a carattere internazionale a Trieste, una a carattere nazionale a Pordenone e una a carattere regionale ad Udine. Per conoscere il programma completo delle iniziative e registrare la vostra presenza agli eventi, visitate l'indirizzo eurodesk.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Parliamo di grandi ritorni, non mi riferisco ai Coldplay, anche se è un po' la notizia del giorno, loro e i ricercatissimi biglietti, grandi ritorni e grandi uscite, insomma in questi giorni, proprio ieri l'altro, sono usciti i dati di 107.000 persone che nel 2015 hanno preso la residenza all'estero, di loro ben 40.000 under 35, tra l'altro questi sono quelli che sono iscritti poi nel registro degli immigrati, sapete, dei residenti all'estero, tantissimi altri questa registrazione non la fanno, quindi numeri sicuramente maggiori. È stata una settimana però dove si è parlato, al di là di questo, tanto di mobilità, grazie anche a una iniziativa, a una campagna, a uno sforzo non solo economico ma proprio uno sforzo di cambio di rotta proposto dalla Università di Padova, che andando contro tendenza ha richiamato a sé 22 docenti italiani, eccellenze all'estero, che hanno scelto di rientrare in Italia proprio perché l'Università di Padova poneva le condizioni giuste per continuare la loro ricerca. 10 di loro erano vincitori di bandi IRSI, delle sovvenzioni del Consiglio Europeo della Ricerca, che tornate alla ribalta questa settimana perché i tre vincitori del premio Nobel per la chimica, tutti e tre nel loro passato hanno partecipato e vinto a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Di questo andare e di questo tornare ne parliamo con Rosario Rizzuto, rettore dell'Università degli Studi di Padova. Buongiorno Rosario. Buongiorno. Ben ritrovata all'Altra Europa. Intanto, credo sia... Qual è la soddisfazione personale, prima che professionale, di riuscire a pagare, di fatto, adesso la dico brutalmente, un biglietto di ritorno a eccellenze italiane all'estero? Ma la soddisfazione personale è grande, perché era un'idea che coltivavo e che ho condiviso con i miei collaboratori l'Ateneo ed ha funzionato. Questa è stata un riconoscimento, ma è un riconoscimento anche per l'università, perché il primo requisito per fare rientrare bravi ricercatori è trovare un ambiente scientifico di qualità, altrimenti non tornerebbero mai. E come si seleziona? Alcuni erano appunto vincitori di ERC, altri no. Come si sceglie chi far ritornare? Un po' che logica si segue? Come si lavora, un po' come se si fosse un CT della nazionale, cioè si cercano le teste migliori per i ruoli migliori, come ci si muove? No, abbiamo seguito due strade parallele. Per gli ERC, che avevano in partenza un grande riconoscimento, che è questo progetto individuale da milioni di euro conquistato con un bando competitivo, beh, li abbiamo cercati uno a uno, sa, poi gli italiani all'estero con progetti ERC o gli stranieri desiderosi di tornare in Italia non sono tantissimi, quindi li abbiamo cercati. Abbiamo avuto sempre una risposta molto complimentosa per il fatto che l'università li cercava e molti ci hanno detto di sì. Nell'altro caso invece io ho chiesto ai dipartimenti di fare delle proposte, tutti e 32 dipartimenti hanno avuto la possibilità di chiedere all'Ateneo il finanziamento per il richiamo di un professore che avesse la qualità scientifica ma che si inserisse bene anche nei temi di ricerca del dipartimento. In ambito accademico è una sorpresa che un premio Nobel sia un vincitore ERC? No, io credo che succederà sempre più spesso. I progetti ERC, con il fatto che sono individuali, quindi uno deve metterci la propria idea, il proprio pensiero, il proprio prestigio scientifico, sono molto selettivi e chi li vince è sempre un ottimo ricercatore. Ovviamente non tutti i vincitori di ERC vinceranno poi il premio Nobel, però non è certamente una sorpresa che un vincitore di premio Nobel sia un vincitore di ERC. Nel presentare il vostro progetto a Padova parlavi che la risposta alla fuga dei cervelli è aspirare a un bilanciamento dei cervelli, no? Tra chi esce e chi entra. Il giorno dopo è uscita la notizia di questi 40.000 under 35 che nel 2015 hanno abbandonato l'Italia. La tua reazione a caldo? Esattamente questo, noi abbiamo un problema di bilanciamento, che un giovane di valore che sia in università o che sia fuori di università cerchi esperienza, nuovo stimolo, idee all'estero, è normale, è fisiologico, molti di noi siamo andati all'estero per avere una nuova fase di ricerca. Il problema è che devono rientrare altrettante persone, quindi chi è uscito deve rientrare o deve far venire in Italia chi proviene da un altro paese. Quando questo bilancio è pari è un arricchimento, andare all'estero, muoversi è un arricchimento, quando è unidirezionale invece è una perdita per il paese. 22 docenti in più e tanti altri ricercatori anche in più, vero, a Padova? Sì, 22 docenti che sono tanti perché sono l'1% di tutti i nostri docenti e poi un grande sforzo per dare opportunità ai nostri giovani. Abbiamo fatto un piano per avere 300 posti di ricercatore in 3 anni. Anche questo, un impegno economico grandissimo per la nostra università, però è l'unico modo per fare fruttare un capitale umano che noi formiamo, che si forma all'estero, che si forma in altre università, e che rischiamo altrimenti di veder perdere. Dobbiamo dare una prospettiva ai nostri giovani brillanti. Questo è un segno per il paese, così hai detto nel chiudere il tuo intervento, e insomma siamo contenti di poter amplificare questo messaggio, un grazie a, a Rosario Rizzuto, rettore dell'Università degli Studi di Padova. Buon anno accademico, Rosario. Grazie a voi, buona giornata. Ancora lo stretto rapporto tra giovani e formazione, giovani e lavoro, sempre una visione europea. È stato presentato il piano di azione per attuare in Italia l'European Pact for Youth, l'impegno sottoscritto da CS Europe e Commissione Europea, che punta a realizzare 10.000 partnership scuola-impresa entro il 2017 per rafforzare l'occupabilità dei giovani. Ne parliamo con Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement. Buongiorno Miriam. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ospiti. Allora, la vostra organizzazione, lo sappiamo, è fortemente impegnata nella scuola e ha un ruolo di primo piano in questo piano. Sì, Junior Achievement, diciamo insieme ad altri interlocutori, perché la logica per la prima volta è di provare a fare appunto sistema, sta cercando di portare all'interno del sistema educativo italiano un aspetto importante, che è quello di riconoscere l'educazione all'imprenditorialità, o meglio ancora all'intraprendenza, come una leva importante per rendere appunto i giovani poi lavoratori e cittadini attivi. È un piano concreto, nel senso che se ne parla da tantissimo di questa alternanza, di questa, insomma, rafforzamento, di questo far andare a braccetto finalmente scuola e impresa. Ci siamo ora? Si entra in una fase prettamente esecutiva? Io sono assolutamente ottimista, credo che per quanto riguardi l'Italia in questo momento, e ci tengo a segnalare questo aspetto, in ambito europeo abbiamo anche una leadership, perché abbiamo una policy in ambito educativo che in questo momento ci consente di poter pensare che i partenariati tra scuola e impresa siano effettivamente attivi attraverso appunto la legge, quella appunto nota come buona scuola, sull'alternanza scuola e lavoro. La cosa importante è sapere che si può abilitare la scuola ad avvicinarsi, diciamo, al mondo imprenditoriale, inteso nel modo, diciamo, più ampio, quindi non intendiamo solo il sistema confindustriale, ma tutto ciò che può essere impresa nel nostro ecosistema appunto nazionale. Per fare un esempio, i primi due firmatari di questo patto italiano sono due ministeri, quello dell'istruzione e quello del lavoro, insomma, che non sempre nel nostro paese sono andati proprio a braccetto, quindi questo è un primo elemento, io credo, qualificante di questo patto. È complicato convincere le imprese ad accogliere degli studenti? È complicato perché l'impresa non lo vede, cosa che invece è più facile nel mondo anglosassone, come un investimento in termini di responsabilità sociale d'impresa. E non vede quello che c'è poi, che può avere poi una ricaduta al proprio interno. Se tu, impresa, metti a disposizione della scuola la risorsa, una tua risorsa umana, e quindi trasferisci nella scuola l'esperienza che tu hai, il tuo know-how, indirettamente poi questo ti ritorna. E per quanto riguarda l'educazione imprenditoriale, ci sono ricerche in Europa che stanno dicendo che questa cosa ritorna non nel lungo, ma nel breve e nel medio. E questo si traduce in capacità da parte dei ragazzi di essere più proattivi, più flessibili, più disponibili allo spostamento, più attenti verso l'innovazione e il digitale, più creativi. Tutti aspetti che nelle nostre imprese, non tanto quelle, non solo quelle grandi, ma anche quelle medie e piccole, potrebbero in questo momento fare la differenza. csreuro.org/pact4youth, questo è il sito di riferimento per tutte le informazioni. Un grazie a Miriam Cresta e buon lavoro. Grazie a voi. 10 secoli di storia, 2000 chilometri dal Baltico allo Ionio, sulle tracce dei Longobardi. Potrebbe essere questo uno dei prossimi itinerari culturali europei. Lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte di queste strade, di questi itinerari, di questi percorsi che contaminano la storia d'Europa, dove appunto percorrendo queste antiche vie puoi respirare l'Europa di ieri e l'Europa di oggi. Beh, per capire se l'itinerario europeo dei Longobardi potrà diventare una realtà, ne parliamo con uno dei promotori. Diamo il benvenuto a Carlo Abba, assessore al marketing territoriale del Comune di Monza, perché proprio il Comune di Monza è a capofila di questo progetto che è stato presentato con un dossier di 700 pagine pochi giorni fa in Lussemburgo. Buongiorno Abba. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo ottimisti? Siamo ottimisti per forza, perché abbiamo lavorato molto a lungo e molto seriamente, e poi abbiamo riscontrato fin da subito un grande interesse da parte dell'Istituto Centrale, quindi che è un'emanazione del Consiglio d'Europa, questo itinerario, per una serie di motivi. Il primo perché è un itinerario che, come diceva lei, ha percorso 11 secoli di storia e parte da Sopramburgo, attraversa l'Ungheria, l'odierna Ungheria, l'Austria, la Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, l'Italia del Nord, per arrivare fin sotto Salerno e Benevento. Perché è un popolo che ha avuto le caratteristiche di sapersi, partito come una tribù, ma di volta in volta si è saputo integrare e scambiare cultura, sì, consuetudini, tradizioni con le varie popolazioni locali. È stato capace di fare in Italia anche raffinate operazioni politiche, quando proprio Monza, la regina Teodolinda, ha deciso di convertirsi alla religione cattolica, aprendo quindi la strada alla sua espansione in Italia. Uno dei motivi che poi è piaciuto molto al Consiglio d'Europa è il fatto che è proprio per queste caratteristiche è una sorta di prototipo di un primo popolo europeo, dalle grandi tradizioni e proprio per la storia che ha avuto. Certo, 15 università, tra cui la Bicocca, il Politecnico di Milano, sì, l'Università di Salerno, 25 musei europei sono alcuni dei partner di, esatto, questa accordata che vede Monza, come ho detto, come capofila. Che impatto può avere per il territorio un avallo di un itinerario di questo tipo? Ha un impatto per tutti i territori, perché l'obiettivo che è proprio insito negli itinerari culturali europei è sia la valorizzazione del tema specifico, ma anche una valorizzazione delle culture locali, ma di quella che è la tradizione enogastronomica piuttosto che della tradizione dell'artigianato. Un po' come tutti noi quando facciamo i visitatori. Andiamo a vedere, no, tipo la Valle della Loira, vediamo i castelli, ma ci piace anche gustare la gastronomia locale, vedere altre bellezze di quel territorio, piuttosto che vedere elementi dell'artigianato locale, che è un modo di visitare il territorio in modo un po' più completo, e ho detto apposta visitatori rispetto a turista, perché il turista magari è un po' più una figura del mordi e fuggi. Il dossier ora è nelle mani del comitato dei valutatori, avete concorrenti in atto che voi sappiate? Ci sono altri itinerari su quel tavolo? Credo che ce ne siano almeno due o tre. Il tema è che ci sono varie fasi di valutazione, quindi non è una sorta di bando, perché se ne passa uno viene escluso qualcun altro, ma ci sono credo due o tre itinerari in valutazione che non conosco bene, perché ho avuto troppo da fare per il nostro, e quindi ci siamo preoccupati di finalizzarci soprattutto su questo. Ma di questi 2000 chilometri sarebbe giusto, sì, l'itinerario, sì, ne ha percorsi alcuni, è andato sul... Ci siamo fatti da Amburgo fino sotto Salerno e Benevento, perché poi quando si vanno a spiegare questi progetti complessi bisogna parlare con la realtà, perché tra quelli che sono gli enti associati ci sono sì musei, università, associazioni, ma ci sono anche le camere di commercio, ad esempio la camera di commercio di Stade, che è una zona molto importante, diciamo vicino ad Amburgo, perché, certo, proprio in questo intravedono anche una possibilità di sviluppo o di valorizzazione sostenibile, economica sostenibile. E come mai Monza capitale di questo itinerario? Beh, Monza è stata sede del Regno d'Italia tra il VI e il VII secolo d.C., e a Monza risiede un patrimonio di gioielli estremamente elevato, ma soprattutto è custodita la corona ferrea, che è una corona d'oro contempestata, diciamo un oggetto di grande pregio, ma soprattutto di grande pregio simbolico, per due motivi. Prima, che si dice ci fosse all'interno un ferro, quindi da qui il nome ferrea, sì, e avesse dei frammenti di uno dei tre chiodi che avessero crocifisso Cristo, e mi rifaccio all'immagine appunto della conversione che è stata fatta a Monza. Il secondo, che la corona ferrea ha incoronato gli imperatori d'Italia, a partire da Carlo Magno, Carlo V e ultimo, diciamo non in termini di importanza, Napoleone Bonaparte. Quel quadro è quella di cosa che studiamo tutti a scuola, in cui sì, Napoleone, certo, dice Dio me la data, quella che me la tocca, e se la mette in testa da solo è esattamente la corona ferrea. Insomma, quindi un simbolo importante. Esattamente. Grazie davvero a Carlo Abbà, assessore al marketing territoriale del Comune di Monza. Aspettiamo la risposta del Consiglio europeo per poi eventualmente andare a camminare in qualche frammento, in qualche spezzone di questi 2000 chilometri. Grazie ancora. Benissimo, grazie a voi. Chiudiamo qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a... Sì. Grazie a Claudia Schiattone in assistenza, Roberta Frisani alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Un grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it è il sito da dove poter riascoltare la puntata e o scaricare il podcast. Euronetplus.eu invece è il portale del network al quale apparteniamo. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora buona giornata da Federico Taddia. L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.